Perché da oggi in edicola c'è Stalin e Cozze, la prima rivista interamente dedicata a chi come te adora sapere tutto sulle cozze ma è appassionato di Stalin. Su Stalin e Cozze di questa settimana, mitili o peoci. Non ce la fai più con queste pubblicità di Stalin e Cozze? Sovverti le pubblicità e sostituiscile con il tuo abbinamento preferito. Giovedì 12 marzo, ore 17, al The Hollis Underground, via dell'Hollis, San Lorenzo. Armati di frullino e saldatrice, costruiamo delle chiavi per aprire gli stalli pubblicitari e sovvertire lo spazio con i contenuti che più ci piacciono. A seguire, aperitivo, karaoke e musica trash. Giovedì 12 marzo, ore 17, al The Hollis Underground, via dell'Hollis, a San Lorenzo. È un warm-up di acquitting. Hacker è chi non ha voglia di stare con le mani in tasca, ma si diverte a smontare, studiare e ricostruire di testa sua.